la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, buon inizio di settimana. Questo lunedì 3 febbraio 2014, 16:35, anzi 36, io inizio sempre tardi per via della pubblicità e dello sforamento degli altri. Vado subito al punto di oggi per chiedervi se volete darci opinioni, come sempre 800 24 00 24. Oggi si parla di questo enorme innalzamento turgido di Teddy Toni, che da parte del Movimento 5 Stelle e di tutti gli altri, in bella fila a dire la verità, è in corso in questi giorni dopo la decisione assunta alla presenza della Camera della cosiddetta ghigliottina, cioè tagliare i tempi per arrivare al voto del decreto IMU Banca Italia. Più volte ho detto come la penso sul decreto Banca Italia. Io la penso esattamente come le opposizioni, non lo avrei votato mai. Per chi non lo sapesse, quella decisione di tagliare i tempi della presidenza è stata assunta con una interpretazione regolamentare che fa parte delle interpretazioni regolamentari precedenti alla Camera dei Deputati, ma a differenza del Senato, alla Camera non tradotta poi in una norma formale. Quindi esplosione della protesta, assalto ai banchi del governo. Inciso, l'assalto ai banchi del governo non avviene per la prima volta, cioè è stato numerose volte nella storia della Repubblica da parte delle opposizioni. Il questore D'Ambrosio, secondo me sbagliando, alza una mano e quindi tocca una parlamentare in maniera del tutto impropria, con una certa violenza, una parlamentare del 5 Stelle. Di lì poi i toni esplodono, si va per via del deposito dell'impeachment contro il Presidente della Repubblica dal boia a Napolitano. In questi giorni, tanto per ricordarne alcune, i giudizi su Boldrini di Metiti, legittimamente politici, diventano anche poi un filmato rilanciato da Grillo: se la Boldrini fosse in macchina cosa gli fareste, con commenti durissimi, sgradevolissimi, che suscitano un'ulteriore ondata di caos e confusione. C'era stata la battuta di un parlamentare Movimento 5 Stelle rivolta alle parlamentari PD, poi corretta in generale alle parlamentari sul sesso orale grazie alle quali prenderebbero i posti. Insomma, la cosa degenera. Enrico Letta parla ieri e oggi di barbarie senza fine, dice che è in questione la democrazia. Un presidente del Consiglio che dice che in questione della democrazia, capite che fa capire che bisogna intervenire con atti concreti, non solo è un richiamo ai toni più bassi. E oggi sui giornali abbiamo da Giuliano Ferrara, che descrive il Movimento 5 Stelle Grillo come un movimento eversivo che dovrebbe avere da parte delle istituzioni un atteggiamento agente per metterlo al suo posto, ed è durissimo verso coloro che hanno dichiarato di aver votato 5 Stelle, a cominciare con Enrico Galli della Loggia, Mentana che ha fatto Grillo il suo supereroe, la Spinelli che ha coccolato Barbara Spinelli che ha coccolato Grillo e così via. Così è nato, scrive Ferrara, quel 25% che fa lo sberleffo partiti e si comporta da stronzo, tre parole sue, votando Grillo. E concludo la mia introduzione di oggi. Io mi sono trovato d'accordo per metà con quello che scrive Gianni Riotta oggi sulla Stampa. Riotta dice: no, il problema non è quello di passare dall'incenso al vetriolo nei confronti di chi ha votato Grillo e del Movimento 5 Stelle, per questo ho chiamato la puntata oggi convivere col vetriolo, il problema è la buona politica. Io però da parte mia poi non sono d'accordo sul fatto che la buona politica ci sia, perché il paese continua ad andare malissimo. Tutto quello che era stato promesso non lo abbiamo visto. Tifo perché l'Unione Europea, lo leggerete domani sui giornali, ci faccia l'infrazione perché il governo aveva promesso di pagare i debiti alle imprese e invece ci becchiamo l'infrazione sacrosanta, perché il debito alle imprese è stato pagato in termini minimi 20 miliardi rispetto a 100 rotti, non sappiamo neanche quanto è. E quindi, siccome la buona politica latita, per me questo è un punto di fondo. Sui toni c'è tutto da ragionare invece. Ne parliamo oggi con Andrea Scanzi, giornalista, un collega, ma non solo giornalista e collega, è anche uno scrittore. Vi richiamo il suo ultimo libro, Non è tempo per noi quarantenni, Rizzoli. Andatelo a leggere perché è un libro gustosissimo. A me piace molto come scrive Andrea Scanzi, che divide un po' le platee, cioè chi lo stima e lo considera un punto di riferimento, e c'è chi, come ha ipotesi, a tutti i giornalisti che hanno ipotesi divisive, ovviamente invece non lo sopporta, ma in questo è buona compagnia. Io sono più o meno analogo da questo punto di vista. Grazie ad Andrea Scanzi di essere qui con noi oggi pomeriggio. Grazie a te, buonasera. Allora, tu sei fresco di una lettera aperta al Movimento 5 Stelle in cui dicevi: beh, non potete fare questi errori. Poi naturalmente hai anche aggiunto che però i commenti alla Boldrini per il suo filmato, in cui dava degli stupratori a tutti quelli che firmavano il siglo, erano commenti altrettanto sbagliati e insopportabili, è così? Beh, certo, che sono sbagliati e inaccettabili. Quel post che ha scritto Grillo, cosa faresti se fosse con te la Boldrini in auto, è uno dei tanti autogol folli, inaccettabili che fa Grillo. Veramente, a volte Grillo bisognerebbe inibirgli il wifi, perché se tu utilizzi la rete in quel modo sdogani anche tutti coloro che utilizzano la rete unicamente come sfogatoio. Il Movimento 5 Stelle è in una situazione, ma sin da quando è nato, particolare, e cioè ha tutti i fucili poi spianati addosso, ha tutti contro, parlo soprattutto di informazione, non appena sbaglia i toni più che i contenuti, ma a volte sbaglia anche i contenuti, viene massacrato. Quello che sta capitando adesso secondo me è evidente, cioè io vedo una larga parte dell'informazione che si è peraltro già appiattita in maniera incredibilmente veloce su Matteo Renzi, vedo questa informazione soprattutto televisiva a sparare delle cannonate tremende contro il Movimento 5 Stelle, che ha fatto tanti errori e io nell'articolo l'ho elencati, dal boia al boia che molla, al sesso orale, al tweet di ieri di Claudio Messora, responsabile della comunicazione al Senato 5 Stelle. È discutibile anche quello che ha scritto Casalino oggi su Sofri e Bignardi. Dopodiché però a me sembra che la sensazione, la tendenza voglia essere quella di spostare l'attenzione dalla pagliuzza, che a volte è anche trave nei 5 Stelle, alle travi evidenti. Tu le hai introdotte anche nella tua digressione iniziale. Il decreto IMU Banca Italia, per esempio, se non c'era l'opposizione dei 5 Stelle, nessuno sapeva cosa c'era lì dentro. Di sicuro non l'avremmo saputo grazie al PD o grazie ai renziani, ma questa cosa capita sistematicamente. È più grave uno che dice in maniera folle e orrenda, boia chi molla, come Angelo Tofalo, deputato 5 Stelle, o è più grave una presidente della Camera, quindi teoricamente l'arbitro della democrazia parlamentare, che utilizza per la prima volta la ghigliottina, già questa abbastanza curioso, e che peraltro ieri invade tutte le televisioni possibili, perché prima era Rai 1, poi era Rai 3, e dice testuale: il Movimento 5 Stelle è eversivo. Chi frequenta, anzi lo cito tecnicamente perché c'è anche un tweet che pare fosse falso, lei ha detto poi da Fabio Falzi ieri sera: chi segue il blog di Grillo è quasi un potenziale stupratore. Cioè, una che dice queste cose qui non deve fare la Presidente della Camera, perché non è più imparziale, perché come minimo non ha fiducia nei confronti di una forza che è stata votata da 9 milioni di elettori, e come non minimo ma come massimo addirittura ritiene che molti di coloro che l'hanno votata stanno nel blog di Grillo unicamente perché sono dei violenti e aspettano un posto di Grillo per potersi sfogare. Questo mi sembra l'aspetto secondo me decisivo in questa fase, cioè che si rischia in qualche modo di avere una totale assenza di democrazia in questa fase, ed è per quello che io ho paura degli errori dei 5 Stelle, perché mi sembra che in questo momento storico molto delicato i 5 Stelle siano gli unici che fanno realmente opposizione, che è un ruolo nobile, nobilissimo. Hanno fatto delle battaglie secondo me splendide, per esempio sulla Cancellieri, per esempio su Girolamo, per esempio su Alfano, per esempio sugli F-35, per esempio sulla Costituzione. Quando però fanno quegli errori lì, e spesso li fa più Grillo che non i deputati e senatori dei 5 Stelle, rischiano, anche per colpa di un'informazione che è tutta contro di loro, di vanificare un'opera che secondo me è sostanzialmente meritoria. Uno degli argomenti che ritorna qui negli sms che ricevo dal pubblico in diretta al 349-238-6666 è questo: molti dicono sui toni chi li alza così sbaglia sempre, però la critica che faccio io, qualcuno ha votato 5 Stelle di quello che ci manda, tra coloro che ci mandano questi messaggi, dice però io il torto che faccio è che non sono soddisfatto dopo il voto che ho dato per quello che concretamente riescono a fare, forse potevano darsi da fare di più anche accettando una dialettica più politica. Tu che pensi su questo? Penso che io sono stato massacrato dal gruppo di Beppe Grillo e dai talebani grillini proprio quando ho fatto una critica di questo tipo. Ci sono stati secondo me due momenti in cui i 5 Stelle potevano incidere di più. Il primo momento è stato prima del governo Letta, non tanto il primo giro di consultazioni ma il secondo, quando Bersani di fatto va a sbattere contro un muro, come era naturale. A quel punto secondo me i 5 Stelle dovevano andare da Napolitano e dire: noi siamo pronti per un governo e abbiamo in tasca un Presidente del Consiglio che potrebbe unire. E loro ce l'avevano questo nome, perché erano o Settis o Rodotà o Zagrebeschi. Se l'avessero fatto secondo me il PD sarebbe stato costretto in qualche modo a rispondere, come ha fatto con Rodotà. Male che vada, il Movimento 5 Stelle avrebbe scoperto un bluff, certo, perché comunque il PD non avrebbe fatto nulla, esattamente come è successo con Rodotà. Il secondo errore, e l'ho scritto tante volte, anche lì mi sono preso gli insulti da buona parte dei talebani che stanno soprattutto in rete, perché poi quando sono stato al Passa Day del 1° dicembre 2013 ti rendi conto che la rete non è per niente lo specchio del paese, neanche dei 5 Stelle. In rete ci sono molti talebani, quelli che poi vanno alle manifestazioni dei 5 Stelle sono molto meno massimalisti di quanto si crede. La seconda ondata di insulti l'ho ricevuta quando Renzi ha fatto la proposta: facciamo una legge elettorale insieme. Io di sicuro non sono renziano e non ho una grandissima fiducia anche nella preparazione ideologica di Matteo Renzi. Dici che parla come un po' Peppa Pig. È anche preparato, secondo me, ideologicamente, come Peppa Pig. Mi sembra un po' esile, mi sembra uno bravo a vendere fumo. È bravissimo a venderlo, ma non mi sembra neanche sto granché sto fumo. Però, questo, bisognava parlarci di leggere il Toro. Secondo me sì, perché comunque male che vada scopri il bluff. L'ho scritto io, l'ha scritto Travaglio. Se lui ti invita a fare una legge elettorale, tu poi, per carità, puoi anche non farla, perché è ovvio che Renzi non vuole una legge elettorale che piace ai 5 Stelle, perché lui vuole un regime bipolare, loro sono il terzo polo, di sicuro non si sarebbero trovati d'accordo. Però se a me uno mi cerca e vuole fare una legge insieme, io come minimo ci vado a quell'incontro. Perché se poi gli dico di no pregiudizialmente gli regalo un punto. Ci dobbiamo fermare qua per 60 secondi l'informazione stradale, poi torniamo con Andrea Scalzi a parlare dei toni gridini e il problema politico, però, della buona politica che manca. La versione di Oscar. Allora, tra i nostri messaggi che arrivano, le opinioni sono le più varie, ma sono, devo dirvi la verità, quantitativamente, non è un sondaggio, perché qui conta chi lo manda, poi l'SMS, quindi non è un campione rappresentativo, ma i più dei messaggi sono, riconoscono le ragioni della durezza dell'opposizione, non i toni, ma la durezza delle ragioni. Concordo esattamente con l'analisi Scanzi, dice uno, dice un altro, i 5 Stelle non devono fare calcoli, adesso bisogna demolire, poi penseremo ai calcoli. Chiaro, però, come la pensa l'elettore 5 Stelle, altri che dicono io vado all'amministrazione dei 5 Stelle, non è affatto vero che in maggioranza siamo sessisti, violenti e così via. Un altro aggiunge invece, stampa, giornalismo televisivo, quasi prevalentemente di sinistra, galleggia tra PD e 5 Stelle in attesa di genuflettersi come d'abitudine nuovi e vecchi padroni, questa è Tina che ce lo manda, ma io francamente proprio no. Si tratta semplicemente però di capire, perché quando i presidenti del Consiglio, i presidenti delle Camere, cioè le istituzioni, non i singoli parlamentari, iniziano a parlare di democrazia in pericolo e alcuni iniziano a scrivere del fatto che bisogna a quel punto intervenire con misure di legge, al netto del fatto che il parlamentare che ha detto bene Napolitano verrà indagato, io inizio a dire mi preoccupo, capite? Ecco, mi preoccupo, anche perché nel passato della Repubblica, quando si trattò per esempio di approvare il trattato della NATO o in occasione di altre leggi, la legge elettorale, quella chiamata truffa ai tempi di De Gasperi, e che non lo era perché dava un premio ma chi intanto aveva la maggioranza, beh, è come se ci furono episodi del tutto analoghi. E i toni con cui il PC storico parlava della DC negli anni 50 erano toni, vi posso garantire, non proprio intonati a un collegio di educande. Sentiamo rapidamente due ascoltatori e poi torniamo a chiedere l'opinione di Andrea Scarzi. Cominciamo con Andrea che chiama da Treviso. Prego Andrea. Sì, grazie a Radio 24. Volevo solo dire che come truffati dalla Parmalat, dalle banche, quello che hanno fatto il 5 Stelle è stato deplorevole, però metaforicamente volevo dire che potevano anche usare la mazza, perché dopo 10 anni non si può essere truffati dalle banche e ancora risarcimenti della Repubblica Italiana devono essere ancora dati. Quindi tu dici che sono persino troppo deboli addirittura, Andrea. Vabbè, Enrico sì. Da Napoli, sentiamo Enrico da Napoli. Prego Enrico. Salve, buonasera. Senta, no, niente, ci stiamo a scandalizzare per quello che è successo dai 5 Stelle e non ci scandalizziamo che ci stavano per l'ennesima volta prendendo in giro, insomma, ha fatto sì male un decreto per l'IMU, alla fine ci ritroviamo a salvare di nuovo le banche che sono state la rovina di questa nazione, ci sta gente che è indebitata, io sono indebitato fino alla gola. E quindi tu dici la rivalutazione delle quote con Banca d'Italia che darà i soldi alle banche azioniste non lo vuoi. Grazie, chiaro Enrico. Le telefonate, guardate, noi non le scegliamo, la stragrande maggioranza delle telefonate sono così, perché io non le scelgo le telefonate. Allora, Andrea Scanzi, è ipotizzabile per così dire che Grillo si dia una regolata, visto che le voci di protesta della società italiana, ma anche nei sondaggi, insomma, ci sono e come? No, non si darà una regolata, anche perché le battaglie che stanno facendo adesso sono battaglie comunque coerenti con il loro programma, coerente con la loro idea più volte ribadita. Io trovo che il cambiamento casomai sia un altro più che un cambio di toni, e credo che il cambiamento sia legato alle figure decisive all'interno del movimento. Fino a qualche mese fa esistevano soltanto Grillo e Casaleggio. A me sembra che il dato politico nuovo, visto che hai parlato anche prima di politica buona o politica cattiva, mi sembra che il dato nuovo sia che stiano emergendo delle figure nei 5 Stelle che funzionano. Tipo? Sono figure, ma per esempio Alessandro Di Battista. Sì. Per esempio Nicola Morra, per esempio Luigi Di Maio, per esempio Giulia Sarti, volutamente ho fatto, o anche Paola Taverna, volutamente ho fatto nomi di figure che ormai anche il pubblico televisivo comincia a conoscere. E anche questa è una novità, perché fino a qualche mese fa loro, in maniera anche molto autistica, secondo me, o non andavano nei talk show, oppure ci andavano però blindati in collegamento, si sedevano accanto in una panchina, parlavano solo con l'interlocutore e poi se ne andavano. Adesso stanno dimostrando che sanno anche fare televisione, che non vuol dire nulla, per carità, però nel momento in cui il Movimento 5 Stelle riesce in qualche modo a sdoganarsi da Grillo e Casaleggio e dimostra che dentro quel movimento ci sono delle persone che argomentano, che sanno parlare, che sanno parlare di economia, che sanno parlare di trattativa Stato-mafia, che sanno parlare di politica, e a quel punto per me cambia molto nell'immaginario, e cambia anche in termini di peso elettorale, perché Grillo contro Renzi, secondo me oggi vince Renzi, perché Renzi è più accomodante, più accondiscendente, funziona di più e rassicura di più. Ma se cominciano a emergere anche queste figure nuove, a quel punto Renzi non è più così sicuro di fare il vuoto anche a sinistra tra coloro che magari a febbraio votarono 5 Stelle perché non erano particolarmente infatuati da Bersani, magari con Renzi potrebbero tornare nel cambio della cosiddetta sinistra. Tra Renzi e un Di Battista, secondo me in tanti scelgono Di Battista. Ed è anche una cosa che taglierebbe l'erba stupida a chi dice che poi i grillini sono dei bambini incompetenti che obbediscono a un capoclasse e non sanno fare altro che pensare altro, insomma, no? Esattamente, è un altro aspetto decisivo. L'aspetto sessista, che secondo me è una delle cose più non solo sgradevoli, io credo anche un autogol, perché da cosa fare la Boldrini, la risposta di Messora che dice se siamo stupratori con noi però stai tranquilla perché cara Boldrini non alziamo la mano, la battuta sul sesso orale, Pompini e così via. Perché ricorre così spesso questo aspetto sessista secondo te, Andrea? Perché evidentemente ce l'abbiamo un po' nel DNA, e perché siamo un po' volgari, per usare un eufemismo. A me dispiace molto, uno perché è sgradevolissimo sentire queste cose, due perché dà l'alibi proprio a coloro che spesso sono state delle politiche quantomeno deludenti di difendersi con lo scudo del sessismo. Questa è una cosa che io non sopporto, perché è una cosa, se ricordi bene, per esempio, che capitava con la Fornero. Tu osavi criticare la Fornero, automaticamente eri maschilista e sessista. Critichi la Madia perché ha sbagliato ministro, voleva andare da uno e è andata da un altro e diventi col pregiudizio, dice che sei sessista. Adesso la stessa cosa con la Boldrini, anche perché poi scatta la reazione delle parlamentari di destra che dice: a noi ci avete bersagliato col sesso per anni e nessuno ci difendeva. È esattamente anche quello che ho scritto proprio in risposta alla Fedeli, vicepresidente del Senato Partito Democratico, che ha detto Scanzi e De Rosa due giorni fa, Scanzi e De Rosa sono sessisti. De Rosa è quello peraltro che parlava di sesso orale, quindi anche un accostamento abbastanza forte nei miei confronti. Avevo semplicemente criticato la Boldrini, questo è inaccettabile. Io sarò, spero, libero di poter criticare la Boldrini non in quanto donna, ma in quanto politica, che per come prende le sue decisioni, non è minimamente arbitro come presidente della Camera, non è credibile. Sentiamo rapidissimamente Nicola da Padova, prego Nicola. Buonasera, sì. Volevo dire che tutta questa polemica secondo me è il solito fumo negli occhi, perché poche persone notano che quello che sta succedendo con i 5 Stelle è un termometro molto importante. Cioè il termometro del fatto che il paese non ne può più? Certo, la gente è stanca ed è bene che loro abbiano anche questi eccessi, perché questo diventa anche una... Lei dice una specie di freno. Facciamo una domanda subito a Andrea Scanzi, perché questo è un tema su cui Grillo torna spesso. Dice: guardate che se non ci fossimo noi, anche con i nostri estremismi verbali, con la nostra durezza, eccetera, avreste avuto, come in Grecia, anche la violenza, diciamo così, di una destra diversa, di una protesta, insomma, che non si riconosce solo in parole dure, ma fa altre cose. È davvero così anche secondo te, Andrea? Io ne sono fermamente convinto di questo. Sono fermamente convinto che loro siano stati l'ultimo baluardo democratico di resistenza, di rabbia e di ribellione. Se non ci fossero stati loro, la rabbia sarebbe stata molto più violenta, e se non ci saranno loro, la rabbia sarà ancora più violenta. Io critico i 5 Stelle dalla mattina alla sera e per questo mi becco degli insulti che ne basterebbe la metà. Ma una cosa che non sopporto proprio è quando sento che i 5 Stelle vengono accostati al fascismo, all'eversione. Questa è una cosa per me che non sta né in cielo né in terra, proprio perché se li si vede lavorare, se li si ascolta, se si leggono le loro proposte di legge, non esiste al mondo. Io non ho paura di Di Maio, io non ho paura di Di Battista, io ho paura di questo governo che non fa niente, io ho paura di un'informazione che spesso mistifica perché vuole mistificare, ma se il terrore della democrazia italiana è Di Battista o la Sarti o Morra, tutto sommato io dormo sereno, no? Allora, io ringrazio Andrea Scanzi, quello che dico semplicemente al nostro pubblico è che non me la sento di fronte al 25% dei voti di negare la voce anche a chi è vicino a 5 Stelle, e non è giusto, e l'informazione non si fa così. Continuate con Radio 24 e appuntamento con me a domani.